Letture di Radio 24. Lubna Abidar, l'attrice marocchina che lo scorso novembre era stata aggredita per aver interpretato il ruolo di una prostituta nel film Much Loved, oggi denuncia il maschilismo della società marocchina nel libro autobiografico La Dangereuse. L'Islam oggi odia donne e sesso, dichiara l'attrice in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, i cui punti salienti sono stati ripresi in un articolo pubblicato sul giornale. Lubna si è rifugiata in Francia dopo una fuga obbligata dal Marocco, suo paese natale. A Casablanca tre uomini la riconobbero. Aveva recitato nel film Much Loved interpretando una prostituta. Un disonore per il Marocco e per l'Islam, che quando vede donne in televisione le chiama puttane e non attrici. Dopo quell'aggressione Lubna ha conosciuto l'oscurantismo dell'Islam e le sue ossessioni. Picchiata a sangue dopo un rapimento in auto, nessun ospedale voleva curarla. E anche la polizia marocchina rideva delle sue disavventure. Così ha preso un aereo, ha lasciato marito e figli ed è andata in Francia. Poi ha scritto un libro dove racconta la sua storia dal titolo La Dangereuse. Sono stata costretta a scrivere il libro dai media marocchini, che dopo la presentazione di Much Loved l'anno scorso a Cannes, hanno raccontato ogni genere di falsità su di me, ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera. Per esempio che sarei davvero una prostituta. Non perdonano a me e al regista Nabil Ayouk di aver raccontato la grande ipocrisia del mondo arabo, l'ossessione per il sesso tra divieti e prostituzione, anche infantile, le orge con i ricchi sauditi che vengono da noi per ubriacarsi. Una vita di violenze la sua, anche in famiglia. A 6 anni suo zio le chiede quale lavoro volesse fare. «Voglio essere una puttana celebre nel mondo intero», racconta ancora, «perché non avevo mai sentito la parola attrice». Le donne che vedevamo in TV, nei film egiziani tollerati di malavoglia, in casa mia venivano chiamate le puttane. E io pensavo che quello fosse il termine normale per le donne che recitano nei film. Il libro ha suscitato ancora di più l'odio degli islamici nei suoi confronti. In poche la sostengono. Le cose sono cambiate, sono diventate più estreme, c'è troppo odio, dice Lubna. Subiamo l'influsso delle emittenti di Arabia Saudita e Qatar che parlano male delle donne e del sesso, che spiegano ai mariti come convincere la sposa ad accettare altre 3 mogli. Una vita da carcerate, quella delle donne nell'Islam, coperte dalle sbarre create dal burqa. Lì dentro ti senti chiusa come in una gabbia, conclude l'attrice, raccontandosi al Corriere. Non si riesce nemmeno a respirare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Cataldo, L'attrice che sfida la Sharia, l'Islam ossessionato dal sesso, dal giornale del 23 maggio. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Letture di Radio 24. Quando Bram Stoker scelse di ambientare alcune scene del suo celebre romanzo Dracula nel cimitero della chiesa di St. Mary a Whitby, una cittadina inglese affacciata sul mare del Nord, non immaginava certo che 120 anni dopo quel cimitero avrebbe attratto migliaia di amanti dell'horror, pronti a farsi immortalare di fronte ai luoghi resi celebri dallo scrittore irlandese. Ma oggi qualcuno ha pensato a un modo per evitare che il sacro si unisca al profano. Durante il Whitby Goth Weekend, migliaia di dark si riversano nella storica chiesa di St. Mary di Whitby, nel North Yorkshire, per farsi fotografare nel cimitero. Il cimitero, sovrastato dall'imponente abbazia, è infatti il posto dove, nel romanzo di Bram Stoker, Dracula porta la sua vittima, Lucy Westenra. In passato un parroco aveva cercato di proibire ai dark di mettersi in posa per le foto dopo averne incontrati dozzine che vagavano tra le tombe. Erano stati installati dei cartelli dove si specificava che era proibito fare fotografie nelle vicinanze delle tombe. Ma ora gli organizzatori del Bram Stoker International Film Festival, che si svolge durante il weekend di Halloween, hanno suggerito di costruire un finto cimitero vicino alla scalinata che dalla città porta al cimitero e all'abbazia. Elaine Edmonds, del gruppo Decadent Drawing Dark Arts, ha dichiarato alla BBC: «Penso che sia un'ottima idea. In occasione del Goth Weekend, moltissime persone vengono qui per farsi fotografare e non mostrano alcun rispetto né per il cimitero né per le persone che vi sono sepolte». Gli organizzatori del festival hanno detto che collaboreranno con la Whitby Dracula Society per dar vita al progetto, che prima però dovrà essere sottoposto alle autorità locali per ottenere i permessi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Danny Boyle? A Whitby potrebbe essere costruito un finto cimitero per evitare che i Dark manchino di rispetto ai morti nel cimitero di Dracula. Dal Telegraph del 16 maggio. Ogni anno in Italia vengono denunciati 11.000 reati informatici e 25.000 furti di identità, mentre ogni giorno su internet appare 1 milione di nuovi malware. La rete è un mondo in cui non siamo più ai vertici della catena alimentare, ma siamo le prede, perché non conosciamo il territorio e spesso non siamo nemmeno consapevoli del pericolo, scrive Alessandro Curioni nel suo libro Come pesci nella rete. Si tratta di una guida scritta con un tono volutamente allarmistico, allo scopo di sensibilizzare il lettore sui reali pericoli che si possono incontrare in internet. Dite la verità, non ci credete, un mondo così non esiste. Invece sì, perché mentre voi state ascoltando, qualcuno sta googlando il vostro nome e scandagliando la SERP, cioè la pagina dei risultati della ricerca, e alla terza schermata del motore di ricerca trova un link a una vecchia pagina che parla di un convegno durante il quale avete fatto un breve intervento. Adesso ha scoperto la società per la quale lavorate e sono passati circa 2 minuti. Si sposta sul sito aziendale e una rapida navigazione gli consente di estrapolare la piccola biografia nell'area dedicata alle Investor Relations. Ora conosce la vostra età, titolo di studio, precedenti impieghi e anche il vostro indirizzo di posta elettronica, perché lo ricostruisce sulla base della sintassi utilizzata per le caselle di posta presenti sul sito, il classico nome più cognome più dominioazienda.com. È il 6° minuto di attività. Lo sconosciuto si sposta sui social network. Facebook, solo qualche falso positivo per omonimia. Instagram, nulla. Twitter, niente. LinkedIn, trovato. Analisi del profilo e soprattutto degli amici. Sono trascorsi 15 minuti e a questo punto è in possesso di una vostra biografia, più o meno completa, e di una parte della vostra rete di relazioni. Tutti quelli con i quali siete in contatto sono del vostro settore, tranne un paio di eccezioni. Torna su Google e avvia una ricerca combinando la vostra identità a quella delle due voci fuori dal coro. Alla quarta pagina di Google appare un riferimento a Facebook, è di 2 mesi fa. Una delle vostre relazioni è in realtà un amico di vecchia data e sul suo profilo pubblico ha postato una foto. È una cena con altre persone e nel commento didascalico vengono elencati i partecipanti. Dopo 30 minuti e un'altra ricerca online, ha recuperato l'indirizzo di posta elettronica di uno dei partecipanti alla cena. Eravate tutti compagni di scuola, ma questo non risulta nei vostri contatti LinkedIn. Va bene, ora può procedere. Apre un account fasullo con parte del nome e cognome del vostro ex compagno. Predispone un'email in cui vi spiega che da un pezzo voleva inviarvi le foto di quella cena. Aggiunge qualche dettaglio che ha raccolto da Facebook. Poi chiarisce che ha avuto qualche problema con il suo account personale e ne ha dovuto aprire un altro. Non usa quello aziendale perché ha dei limiti nell'invio dei file che, per dimensione e natura, vengono bloccati dai sistemi di sicurezza. Spiegato il ritardo e il nuovo indirizzo di posta, che vi chiede di salvare, vi allega un file foto.jpg, in fondo alla mail un PS. Sono troppo belle. Sono passati 59 minuti. C'è posta per voi. Aprirete quell'email e la leggerete, perché in fondo non c'è una buona ragione per non farlo. Adesso doppio clic sull'allegato che l'antivirus non ha bloccato perché il virus è di quelli scritti ad hoc per l'occasione e a questo punto si fa buio, perché quello che succederà dopo non dipende più da voi. In ogni caso, siete digitalmente morti. Se 10 anni fa, per scoprire dove lavoravate, quali erano i vostri hobby, chi erano i vostri amici e conoscenti, probabilmente avrebbero dovuto pedinarvi e frugare nella vostra spazzatura, magari per intere settimane, oggi basta navigare per una decina di minuti tra Google e i social network per avere un profilo molto dettagliato e questo, tenetelo presente, è un vostro problema. Alla base del successo di qualsiasi crimine informatico ci sono le informazioni. Tanti più dati sono a disposizione del delinquente, tanto più il colpo avrà possibilità di riuscire. Stabilito che sapere tutto di voi è facile, siete un bersaglio soltanto per il fatto che esistete, veniamo alla notizia veramente cattiva. Se un predatore vi prende di mira online, avete delle probabilità di cavarvela veramente molto basse. La criminalità da qualche anno si è accorta che internet è diventato un mare molto pescoso e con un grado di professionalità sempre maggiore si sta strutturando per sfruttare il nuovo mercato, ormai globale a tutti gli effetti. Un'organizzazione basata in Cina può agevolmente colpire una vittima in Spagna, con costi ridicoli. Le tecniche per ingannare e truffare si sono sempre più affinate e i dilettanti che fanno scherzi online, oppure gli adolescenti che vogliono giocare a fare l'hacker, sono sempre più numerosi. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Alessandro Curioni, Come pesci nella rete, guida per non essere le sardine di internet. Mimesis, editore, 146 pagine, 10 euro. Da Londra a Roma, da Madrid a Berlino, negli ultimi 2 anni le relazioni extraconiugali sono aumentate del 24%. Oggi in Europa la percentuale delle persone che dichiarano di aver tradito il partner almeno una volta sale al 51%, oltre la metà delle persone sposate o in coppia. Il responso arriva da uno studio dell'IFOP, l'Institut Français d'Opinion Publique, che confronta i dati attuali con quelli ottenuti da una ricerca simile fatta nel 2014. Protagoniste di questo boom sono le donne. Negli ultimi 24 mesi sono aumentate del 36%. Con chi si tradisce e dove? Quasi la metà dei fedifraghi finisce sotto le lenzuola con un amico. Declina il fascino del mistero. Lo sconosciuto è in caduta del 18%. Le donne confessano di aver ceduto alla tentazione con un collega, con l'ex, con il miglior amico del marito o del compagno. La classifica dei luoghi galeotti fotografa la routine giornaliera. Si tradisce sul posto di lavoro nel 45% dei casi. Seguono feste a casa di amici e palestra. Tra i luoghi dove avviene il tradimento cala la pila degli hotel e torna di moda l'auto. Le ricerche dell'IFOP sono state commissionate da Gliden.com, sito di incontri per persone sposate o in coppia in cerca d'avventure extraconiugali. Oggi gli iscritti del nostro paese a questa community sono 850.000. In 2 anni sono aumentati del 143% e questo è un dato tutto italiano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Sica, Infedeltà, le donne tradiscono di più, da Panorama del 25 maggio. In Giappone sono le mogli che danno la paghetta al marito. Probabilmente questo succede anche in Italia, anche se non in modo così esplicito. In Giappone gli uomini ricevono ogni mese 2 stipendi. Quello della loro ditta e quello che gli concede la moglie, Severo, ministro delle finanze della famiglia. La consorte riceve dal marito l'intero salario da lui guadagnato, lavorando fino a 60 ore settimanali, spesso rischiando il karoshi o morte per eccesso di lavoro. E gli dà quanto lei ritiene serva al coniuge per i bisogni di ogni giorno: sigarette, giornale, ricariche del cellulare e magari una seduta, chiamiamola così, in un massage parlor per rilassarsi con una oppai. Donna con seno esagerato, una vera idea fissa per i maschi nipponici. Meglio un oppai una volta ogni tanto che un amante fissa, ragiona la pragmatica casalinga e allenta un poco i cordoni della borsa. A tutte le spese importanti fa fronte lei con i soldi consegnatigli dal marito, riuscendo anche a mettere da parte un sostanzioso gruzzolo segreto chiamato esokuri. È stato calcolato che una moglie di classe media accantona ogni anno, a totale insaputa del marito, 4 milioni di yen, circa 32.000 euro. Si guarda bene dal depositarli in banca, perché teme che il suo tesoro segreto sia scoperto. Preferisce nasconderli in casa o affidarli alla propria madre. La media della paghetta casalinga elargita al marito è pari a circa 450 euro. Di questi soldi, chiamati okozukai, il marito riesce anche a risparmiare qualche spicciolo per avere un suo fondo segreto, ma la media del suo esokuri mensile raramente supera l'equivalente di 50 euro. Il giorno dello stipendio è comunque molto atteso, specialmente dal marito, tenuto a stecchetto non solo finanziariamente, ma anche sessualmente. È infatti quello il solo giorno del mese in cui ci sono buone probabilità che il ministro delle finanze si sbilanci, fino al punto di esprimere al coniuge la propria gratitudine, concedendogli le sue grazie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Silvio Piersanti «In Giappone la paghetta la danno le donne al marito» dal venerdì di Repubblica del 20 maggio. Nasce a Bolzano la prima ambulanza veterinaria della Croce Rossa italiana. Il servizio, dedicato agli animali domestici, sarà attivo già in questi giorni. Servirà la città e i comuni limitrofi e prevede un'ambulanza sia per le urgenze veterinarie, sia per i trasporti. Sarà gestito da volontari, veterinari e non, con formazione specifica, che lavoreranno con l'aiuto della clinica veterinaria Città di Bolzano. Il soccorso per gli animali feriti, spiega il responsabile del progetto per la Croce Rossa Italiana dell'Alto Adige, Alto Bertagnoli, funzionerà in modo analogo alle ambulanze tradizionali e a occuparsi del triage sarà un veterinario. L'ambulanza avrà anche un aspetto molto simile a quelle tradizionali, ma sarà caratterizzata da livrea ad hoc, che la distingueranno dalle altre. Il modello bolzanino si diffonderà poi presto anche in altre città italiane. A Voghera, ad esempio, dicono dalla Croce Rossa, c'è già un mezzo dedicato e il servizio partirà nei prossimi mesi, non appena completata la formazione del personale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sara Grattoggi «A Bolzano corre l'ambulanza per cani e gatti» dal venerdì di Repubblica del 13 maggio.